punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Questi tagli sono la morte del teatro e la fine. Chi c'è qui in piazza in questo momento a protestare del mondo della cultura? C'è tutto il mondo, ci sono i teatri milanesi, ci sono le fondazioni lirico-sinfoniche, ci sono lavoratori e artisti. Altri conti, non tornano i conti, dacci più soldi! Tremonti, non tornano i conti, dacci più soldi. Insomma, messaggio chiaro per i soldi che mancano su diversi fronti in questa 50ª settimana dell'anno. E a voler collegare le notizie, appunto, gli spunti di preoccupazione sono molteplici. Benvenuti ancora da Gigi Donelli a questo nostro appuntamento con la settimana raccontata da Radio 24. Come sempre noi ripartiamo dalla cronaca. La prima della Scala è tornata in questi giorni ad essere il palcoscenico della protesta, lo sfogatoio delle inquietudini che vanno da Italia alla cultura, ai problemi occupazionali, alla riforma universitaria. Il tutto fermo in attesa di fiducia. Fin d'ora vi ricordo l'appuntamento con il discorso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, proprio in Senato saranno le 9 del mattino di lunedì, poi la Camera e martedì il voto. Tutto da seguire naturalmente su Radio 24. Ma noi intanto rimandiamo indietro il nastro della nostra settimana ripartendo proprio da Piazza della Scala, un momento da non dimenticare raccontato dalla nostra Raffaella Calandra. Un boato cambia la musica della piazza e l'eco di cariche, scontri e manganelli copre tamburi e vuvuzela di una protesta a più voci. Manca quasi un'ora alla prima della Scala, quando una cinquantina di giovani, tra studenti e rappresentanti dei centri sociali, forzano le transenne. Molti sono arrivati con i caschi in testa, puntavano a raggiungere altri gruppi dall'altra parte di una piazza blindata. Si infrangono così controfile di agenti in assetto antisommossa, volano petardi e lacrimogeni, dall'altra parte inizia una carica di alleggerimento. Alla fine ci saranno 10 contusi e un fuggi-fuggi generale che carica di tensione il coro di slogan e urla fin lì intonato. Contro i tagli protestano le fondazioni liriche, come gli attori protestano gli studenti. Questi tagli sono la morte del teatro e la fine. Altri conti, non tornano i conti, dacci più soldi! Voleva essere una protesta simpatica, infatti come puoi vedere noi siamo vestiti da pagliaccio. Tagliare tutto quello che produce cultura mi sembra poco lungimirante. E intorno ad una torre di cartone, palcoscenico delle proteste, portano in piazza la loro rabbia anche gli immigrati. Non ho finito con la discesa della torre. Raffaella Calandra, Radio 24, sulle 24 ore. Aspettando la fiducia, Piazza della Scala torna ad essere dunque il palcoscenico del clima politico, ovviamente agitato. Nulla di nuovo per chi ha qualche anno sulle spalle e, come sempre in queste circostanze, il teatro, l'opera, la cultura resta sullo sfondo. Prima di cambiare pagina, allora sentiamo proprio una riflessione sui contenuti artistici della serata a cura di Armando Torno. La prima di Sant'Ambrogio della Scala, Le Valchirie di Wagner, ha avuto un esito tutto sommato positivo. Gli applausi non sono mancati, l'opera è piaciuta, c'è stata una soddisfazione. Direi che la grande protagonista della serata è stata la cultura, sia per l'appello del maestro Barenboim, sia per l'assenza del ministro Bondi, che ha causato una piccola querela. Insomma, c'è stato l'affair Bondi nel foyer. Subito ovviamente sono arrivate altre dichiarazioni, si sono commentate, però lo spettacolo è indubbiamente anche lo specchio della società italiana. Quello che succede alla prima della Scala è un po' l'aria che tira, il vento che si respira, e quindi la contestazione esterna, quello che tutto sommato si è discusso, l'opera che è andata in scena, rappresentano un po' anche i nostri problemi. Possiamo perdonare qualcosa al tenore, qualche incertezza, magari quel fiato che ha preso dopo 4 note, possiamo perdonare magari così una luce che non funzionava, possiamo perdonare qualche piccola diciamo virgoletta al maestro Barenboim, che forse doveva accelerare in certi punti e diminuire in altri, ma queste, si sa, sono sciocchezze. Le Valchirie sono state belle, la prima come al solito è stata un trionfo. E perdoniamolo senz'altro il tenore, ricordando il successo appunto dell'evento. Presenze, assenze, querel, mal di pancia e la cultura di cui ci riempiamo spesso la bocca all'estero e che poi trattiamo male in patria. Dopo i tagli cristallizzati nella legge di stabilità, dal mondo dei lavoratori dello spettacolo arriva quella che con una certa enfasi definiscono l'ultima chiamata. L'hanno battezzata la carta del Capranichetta, 7 punti considerati fondamentali per la sopravvivenza del mondo della cultura e dello spettacolo. A stilarla i lavoratori del cinema e del teatro, gli artisti, le associazioni e i sindacati di categoria. Dopo le giornate di sciopero e di protesta, questo dicono è l'ultimo appello, l'ultima chiamata al governo. Il presidente di Agis e ANEC, Paolo Protti. Questo è l'ultimo appello perché ormai la legge di stabilità è già stata fatta. C'è solo la speranza di quelli che vengono chiamati decreti mille proroghe o omnibus, quelli di fine anno, ed è l'ultima speranza. Con la non politica di questi mesi si sta correndo il rischio di mettere in ginocchio uno dei sistemi numero uno del paese, cioè il sistema dell'industria culturale. Tra i punti della carta, la richiesta di reintegrare il Fondo Unico dello Spettacolo per il 2011, almeno ai livelli del 2008, rinnovare e rifinanziare tax credit e tax shelter, ripristinare i fondi destinati al 5 per 1000, adottare misure urgenti per la difesa del lavoro di centinaia di migliaia di addetti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cultura è economia, è politica e la politica è dopo tutto assumere decisioni. Una decisione importante spetta al Parlamento, chiamato martedì prossimo, il 14, a votare la fiducia all'esecutivo. Inevitabile dunque che questa sia stata anche la settimana delle manovre, delle ipotesi di trattative e poi del muro contro muro tra i due schieramenti. I finiani parlano di crisi al buio, Berlusconi replica avremo 314 voti e anche più alla Camera e tanto basta per proseguire. Battaglia dunque all'ultimo voto, anzi all'ultimo deputato e senatore, e questo fino alle minacce di denuncia. Eventuali offerte materiali ai deputati sono un reato. Niente nomi e cognomi da parte del Partito Democratico, ma il segretario Bersani lancia l'allarme compravendita in Parlamento. Se queste opere di convinzione di cui si legge, oltre ad avere aspetti politico-culturali, filosofico-ideali, avesse anche aspetti materiali, saremmo di fronte a una pressione, saremmo di fronte a uno scandalo, saremmo di fronte a un reato. A perdere due deputati è l'Italia dei Valori. Di Pietro parla di squallida campagna acquisti, si rivolge quindi alla magistratura e dice: mi auguro che la Procura della Repubblica possa accertare le ragioni per cui alcune persone vengono costrette, indotte o invogliate a cambiare il proprio voto all'ultimo minuto. In vista del voto del 14, l'ex magistrato si rivolge poi a Fini e dice: se fai passi indietro sei come Giuda. Attivi intanto i centristi dell'UDC e di Alleanza per l'Italia. Faccia a faccia alla Camera tra Casini e Rutelli. Quest'ultimo spiega no ad un Berlusconi bis. L'ex presidente di Montecitorio conferma: il Cavaliere deve dimettersi. Incognita infine rappresentata dai radicali: decideremo all'ultimo in modo non scontato, annuncia Pannella. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La conta sul pallottoliere dei voti pro e contro la fiducia al governo è un vero e proprio terremoto all'interno dell'Italia dei Valori, che perde due deputati, lasciando il partito di Di Pietro a un passo dal rischio di dover addirittura perdere il gruppo parlamentare alla Camera. Che Dio abbia pietà della loro anima, della loro dignità, commenta il leader dell'Italia dei Valori, che vede la sua squadra di deputati scendere da quota 24 ad almeno quota 22, vicino ormai alla fatidica soglia dei 20 minimo necessari per mantenere il gruppo. Esce Domenico Scilipoti, che annuncia assieme a Massimo Caleario e Bruno Cesario una nuova componente, Movimento di Responsabilità Nazionale. L'onorevole dell'Italia dei Valori, tuttavia, sostiene di essere ancora intenzionato a votare la sfiducia al governo, al contrario di Caleario, che annuncia l'astensione, e di Cesario, che invece sosterrà il governo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Comunque, decisioni sofferte. Sentiamo quanto da Alessandro Milan, che ospita l'onorevole Domenico Scilipoti. Io glielo chiedo per l'ultima volta, poi lei voterà la sfiducia o no? Me lo dica. Ma intanto io non ho nessuna scelta ancora, perciò non ho fatto scelta. Io ho preso, uscito dal partito, dice almeno. Io ho preso una posizione perché sul mio nome si sta buttando fango e io ritengo che tutto quello che si sta

Certo. Tra l'altro no, si pone un problema, adesso si è messa anche un po' sullo scherzo, anche in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale lei forse si è anche un po' arrabbiata perché ha detto certo il cesareo quello non l'ho mai pensato, giammai, insomma, prima la salute sua, della sua bimba, insomma, quello che conta è questo. Però il problema che oggi Concita De Gregorio, direttore dell'unità, mette nel suo editoriale è più serio di quanto si possa scherzare. Cioè ci sono tre deputate, una è lei, che sono incinte e che... può darsi, non si potranno presentare il 14. E questo che tipo di problematica pone, secondo voi? C'è un problema di regolamentazione. Capisco che è piccolissima cosa rispetto ai problemi che le donne che aspettano un figlio, che poi hanno un figlio, hanno sul lavoro. Cioè, partiamo dal presupposto che comunque si fa la parlamentare ha parte da una posizione privilegiata, diciamo così. Però indubbiamente c'è il problema che la Camera non riconosce, il Senato uguale, non riconosce la maternità in quanto tale, cioè la maternità è assimilata all'assenza per malattia, il che evidentemente ha degli effetti sull'opinione pubblica, secondo me, perché sarebbe importante che il luogo dove si fanno le leggi riconoscesse per primo simbolicamente il valore della maternità. Cioè dovesse risultare assente, lei risulterebbe assente per malattia, cosa che la gravidanza certo non è. Esattamente. Beh, insomma, bel esempio. Esatto, è una cosa abbastanza seria. E non solo, ma ha anche un effetto sul voto, perché chiaramente chi è assente per malattia, così come per qualsiasi altro motivo, giustificato o meno, incide comunque sull'esito delle votazioni. Mentre ad esempio chi è in missione per conto della Camera, non so perché rappresenta la Camera dei Deputati ad un convegno, ad un incontro, ad una missione, non incide sull'esito del voto, certo. Il che ha un effetto invece pratico sui risultati delle votazioni e quindi sulla rappresentanza della volontà popolare. Punto e a capo. E adesso ripartiamo da un'agenzia battuta l'8 dicembre dall'agenzia di stampa Radiocor. La Commissione europea, leggo, ha ricevuto la richiesta formale da parte di 10 paesi dell'UE di procedere per una cooperazione rafforzata sul brevetto europeo all'insegna del trilinguismo e le lingue sono francese, inglese e tedesco. Lo ha confermato il commissario al mercato interno Michel Barnier. I paesi che procederanno da soli con il brevetto trilingue sono Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Slovenia e Svezia. Sono attesi altri due stati che Barnier non ha voluto menzionare. Il commissario Michel Barnier ha poi aggiunto che non ci sarà alcuna discriminazione nei confronti delle imprese dei paesi che non parteciperanno al progetto. Sentiamo la reazione di Andrea Ronchi, ministro delle politiche comunitarie, intervenuto a Focus Economia. È inaccettabile ciò che sta accadendo, gravissimo, va contro poi i principi del mercato unico dell'Europa ed è una decisione assolutamente irresponsabile. Io mi sono battuto con ovviamente l'appoggio di tutto il governo, non per una questione soltanto dal punto di vista culturale, e questo già basterebbe, ma perché l'esclusione dell'italiano penalizza fortemente la piccola e media impresa della nostra nazione. E tra parentesi, questo è un vulnus molto forte per il manifatturiero, non soltanto dell'Italia. È una decisione che, ripeto, è irresponsabile, va contro gli interessi della nostra economia. E io sono convinto che la decisione di fare un'iniziativa di cooperazione rafforzata è un vulnus fortissimo alla stessa Unione Europea. Il trilinguismo che sarebbe di fatto formalizzare due tipi di Europa. L'Europa è una, l'Europa 27, c'è l'Europa dei diritti e l'Europa dei doveri. Noi abbiamo chiesto una mediazione, la mediazione, il commissario Barnier all'inizio ritenevamo che potesse accettare un compromesso che potesse portare alla unanimità questa soluzione. Oggi vediamo che tutti i nostri sforzi di mediazione, di accordo, rischiano di essere respinti. Qui la realtà è che si vuole fare una cosa, tutti parlano di competitività. In realtà nessuno la vuole la competitività, perché difatti il trilinguismo che cosa porta? Porta un attacco proprio al discorso della competitività. L'Italia non può tollerare una simile iniziativa, non la può tollerare assolutamente, quindi l'Italia è in questo momento su questo argomento assolutamente coesa e unita e la battaglia non si fermerà.

secondo me sì, guardi, io nei primi tre mesi in campagna elettorale parlavo proprio di rivoluzione, il termine più frequente usato da me è stata rivoluzione, nel senso che ovviamente rivoluzione pacifica, civile, ma nel senso che rivoluzione vuol dire un cambiamento più rapido, più repentino e non fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni, quindi secondo me la rivoluzione ci vuole, si può fare e si possono ottenere sicuramente dei risultati, perché la gente per bene in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria, dove adesso io mi accingerò a fare, diciamo, questa ricostruzione della industria di Reggio Calabria, diciamo, è pieno di gente per bene, solo che sono ognuno per conto suo, nell'individualismo proprio vero della parola, proprio per una questione nostra naturale forse, e quindi non otteniamo dei risultati. Oggi comincia ad esserci un'aggregazione, la gente viene fuori, la gente ne parla nelle trasmissioni televisive, ma mi riferisco soprattutto alla società civile, non considero proprio la classe politica, che sarebbe completamente da abolire completamente. Ma questa rivoluzione investe tutta la Calabria secondo lei, o Reggio Calabria resta come una sorta di punta più avanzata? Reggio Calabria è una di quelle province che secondo me ha una reazione un pochino, perché era in una condizione peggiore rispetto alle altre province e quindi avrà una reazione maggiore, ma una reazione maggiore sarà un'onda lunga che colpirà dall'Aspromonte al Pollino, ovviamente in senso positivo e benefico. Vi ricordo radio24.it per sentire lo speciale, il viaggio intero di questa settimana dedicata alla rinascita della Calabria. Punto e a capo. L'hai fatta? Guarda che stiamo partendo, meglio se la fai. È il mantra ripetuto da ogni madre che stia per mettersi in viaggio. L'ha ripetuto anche la signora, madre di due bimbi, che a un certo punto lungo l'autostrada all'altezza di Lombardone, 15 km da Torino, ha dovuto fermarsi e far scendere i bambini. Rivolti verso i campi pieni di arbusti invernali, i bimbi hanno compostamente fatto la pipì. Così come recita la Cassazione, che si sa ha dovuto esprimere pareri su quasi tutto in questi anni. Evidentemente non è bastato. Atti contrari alla pubblica decenza, infatti, recita il verbale dei carabinieri che hanno fermato i due bambini in flagranza di reato. Seguirà processo, e non è uno scherzo, e la mamma dovrà pagare 206 euro di multa. Nel corso del 2010 sono state fatte alcune multe ai padroni di cani che non erano usciti con paletta e sacchettino, ma nessuno, a parte il caso di un vecchietto di Parma, è stato mai multato per la pipì del cane, che di solito la fa anche contro muri e cerchioni d'auto. Il cane fa la pipì per segnare il territorio, i bimbi perché proprio non ce la fanno più, e di solito le mamme dei figli maschi orientano i loro piccoli verso i prati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 30 anni dal suo assassinio nella città di New York, e mi riferisco all'assassinio di John Lennon, il mondo intero canta ancora le sue canzoni. I giornali americani hanno chiesto ai loro lettori di restituire il proprio personalissimo ricordo dell'annuncio della morte di Lennon, e Mario Platero lo ha fatto in maniera speciale assieme a Guido Barenson, conduttore del TG2, all'epoca corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti. Let me take you. Strawberry Fields, grande canzone dei Beatles. Mi ha colpito in questi giorni che alcuni giornali americani hanno detto, dice, beh, cercate di ricordare e ditecelo dove eravate in quel momento, in quel giorno in cui è stato ucciso John Lennon. Beh, io me lo ricordo perché ero già qui a New York ed ero con un collega, ero con Guido Barenson, conduttore del TG2, del Gambero Rosso, di vari programmi televisivi. Allora era corrispondente di Repubblica. Guido, buongiorno, ci senti? Ciao. Mi senti? Ciao Mario, buongiorno a te. E dunque, io ricordo questo, che eravamo insieme a casa mia e stavamo guardando la televisione e a un certo punto, improvvisamente, le trasmissioni sono state interrotte e apparsa una striscia di notizie che diceva John Lennon ferito. John Lennon sparato, sì. Sì, esatto, shot. John Lennon shot, ricoverato in ospedale e non si sa se sia in fin di vita o in che condizioni sia. Ecco, e mi ricordo che la nostra reazione immediata è stata quale? Ci siamo precipitati per strada, abbiamo preso il primo tassi che abbiamo trovato, il tassista stava piangendo e decidemmo di andare di cercare di entrare nell'ospedale. Esatto, e arriviamo... Non ricordo il nome, ma tu certamente sì. Che sei a New York te lo ricordi. Beh certo, era il St. Luke Roosevelt, era il Roosevelt Hospital che è nel West Side, è subito al di là di Central Park West. Allora noi arriviamo di fronte all'ospedale dove c'è naturalmente l'inferno, telecamere, tutti che spingevano, e noi pensando di essere più astuti degli altri, decidemmo di entrare dalla porta di servizio e ci infilammo nel garage dell'ospedale, dove incredibilmente non c'era nessuno, e riuscimmo a prendere un ascensore. Eravamo convinti di essere entrati come il coltello caldo nel burro, in realtà non riuscimmo a sbarcare a nessuno dei piani dell'ascensore che prendemmo, tranne che a un piano dove si aprì la porta e noi scendemmo in uno scenario che vorrei che tu raccontassi. Sì, era uno scenario da film ed era alquanto inquietante perché si aprì la porta dell'ascensore e al di là di questa porta dell'ascensore c'era un piccolissimo corridoio con un'anticamera e poi una porta con delle sbarre di metallo come fosse una prigione. Infatti, e al di là di queste sbarre di metallo c'erano questi personaggi con questi palandrani, con questi camicioni che sono obbligatori negli ospedali, che così che si aggiravano e che a un certo punto hanno cominciato a guardarci, sembrava quasi una scena di un film del terrore, venendo verso di noi, e ci siamo accorti che quello era il piano dei matti. Eravamo sbarcati, eravamo riusciti a entrare nell'ospedale, ma lontanissimi dalla zona del pronto soccorso, e quindi ecco, e poi ci fu la solita scena all'italiana, perché a quel punto, avendo capito dove ci trovavamo, abbiamo subito schiacciato il bottone per scendere. Miracolosamente la porta si è aperta a quel punto su un corridoio, abbiamo camminato verso questo corridoio e per combinazione dall'altra parte c'era un'anticamera dall'altra parte di questo corridoio. A quel punto abbiamo visto la scena da dentro l'ospedale dal vivo, dove c'era Yoko Ono, c'era questo figlio piccolo, c'erano gli amici, c'erano alcuni dei fans, sì. E naturalmente siamo stati immediatamente immobilizzati e trascinati fuori, ma educatamente e rudemente accompagnati alla porta. Punto e a capo. Ora invece un compleanno, era frate Antonino Das Casazza, cioè Nino Frassica, nell'85 a Quelli della Notte con Renzo Arbore. Oggi Frassica compie appunto 60 anni e festeggia anche i 40 anni dal suo debutto artistico. Ne sentiamo un bilancio al microfono di Paolo Panceri. Dal 2 marzo del 70 è debuttato, ad oggi ho fatto 40 anni di cose belle, brutte, così, medie, alte, basse, ho preso 6, ho preso 10, ho preso 3. Quindi mi sono divertito e ci ho guadagnato e me la sono spassata, quindi tutto procede come nei miei sogni di ragazzino. Volevo fare l'attore, volevo stare a Roma, e tutte e due le cose le ho fatte, quindi un ragazzo realizzato. Può esistere ancora una comicità come quella che avete fatto voi della banda di Arbore con lo stesso Arbore 25 anni fa? Sì, c'è, tuttora esiste, solo che si trova un po' un pezzettino qua, un pezzettino là, una parte, una cosa è stata copiata là, una cosa è stata rifatta là, una cosa ancora continuiamo a farla noi stessi. Quella comicità che ha inventato Renzo e il quale con me si è subito sposato. E ora chiudiamo con un po' di sport per una settimana che, insomma, almeno sul fronte calcistico non ha portato grandi risultati. L'Inter abbacchiata in missione con tanti dubbi. Partita da Malpensa, la spedizione nero-azzurra verso il mondiale per club di Abu Dhabi. Benitez è più che mai in discussione e il presidente Moratti ha fatto visita alla squadra. Che cosa abbia detto lo racconta il capitano Javier Zanetti. Che ci tiene tantissimo, come ci teniamo anche noi. Sappiamo che vincere una Coppa del Mondo non è mai facile e sarebbe un'occasione, un'opportunità unica per tutti noi. Per quanto riguarda a questi infortunati, io credo che saranno quasi tutti disponibili e già credo che questa sia una grande notizia, perché avere la squadra al completo in una competizione così importante vuol dire tanto e speriamo di poter disputare due grandi partite. Il graffio di Dario Ceccarelli. Benitez, con le idee finalmente chiare, rassicura Moratti. Tranquillo, presidente, con l'Inter faranno tutti una bella figura. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non budimo perdo, e fa piure e merda, perché noi siamo bravissimi. Ecco, questa settimana chiudiamo con il nostro perfido Dario Ceccarelli. Chissà che alla fine questo suo graffio non porti un po' di fortuna agli interessi interisti. Bene, con questo noi abbiamo chiuso. Non mi resta che ringraziare Valeria Bernardi in regia questa mattina. A sabato prossimo.